Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo giovedì 9 gennaio, un nuovo anno che si prospetta come gravido di tensioni internazionali difficilmente risolvibili, di questo naturalmente parleremo e parlerà anche l'Internazionale Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli in collegamento da Baghdad e questi i titoli di oggi. Iraq, il governo iracheno è avvisato dell'imminente attacco contro le basi americane. Libano, proteste contro il razionamento dell'energia. Papua, l'esercito indonesiano utilizza notizie sul web come arma contro la rivolta di Papua. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E naturalmente cominciamo dall'Iraq e dalla debole condanna del governo ai 22 missili che sono stati sparati contro le due basi militari, 17 contro quella di Ain al-Assad nella provincia sunnita di Al-Anbar, non lontano dal confine siriano che ospita soldati per lo più americani e inglesi, 5 altri contro quella di Erbil, in Kurdistan, dove sono a distanza anche i soldati italiani. L'Iran ha detto di aver dato la risposta più debole tra quelle che hanno valutato per l'omicidio del generale Soleimani e che aveva avvertito in anticipo la notte precedente in uno sforzo a non provocare vittime. Il ministro degli esteri Zarif ha detto che l'imminenza dell'attacco è stata detta agli iracheni rispetto alla sovranità del paese per dare tempo alle persone di levarsi di mezzo. In più, pare che gli iraniani abbiano comunicato direttamente con gli Stati Uniti attraverso l'ambasciata svizzera che cura gli interessi americani in Iran. Sia Trump che Zarif hanno parlato di de-escalation nei loro tweet, ma gli iracheni restano preoccupati di restare il campo di battaglia di due potenze straniere, di fatto alleate. Nel frattempo Trump ha detto che imporrà nuove sanzioni all'Iran, mentre la Camera americana voterà oggi per limitare le azioni di Trump sull'Iran. Sempre in Iraq, invece, il potente imam radicale populista sciita Muqtada al-Sadr, che controlla il blocco più importante in Parlamento, ha detto che le milizie dovrebbero fare un passo indietro. I leader curdi invece chiedono che la regione venga tenuta fuori dalle rivalità straniere. Diverse compagnie aeree hanno cancellato i voli su Baghdad. Intanto ieri sera, sempre nella capitale, due razzi sono stati lanciati, come spesso accade, verso la Green Zone, la zona verde della città della fortificata, sede delle ambasciate, tra cui quella americana, e delle istituzioni politiche irachene. Libano, 12 persone ferite nelle proteste a Tripoli contro il razionamento dell'elettricità. La mancanza di energia è un problema che sussiste da anni con un governo incapace di generare quello di cui la gente ha bisogno. I manifestanti si sono riuniti vicino alla compagnia elettrica di Qadisha e hanno tirato pietre ai soldati che hanno lanciato gas lacrimogeno. Israele, mercoledì il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la decisione del pubblico ministero della Corte Penale Internazionale di avviare un'indagine sui crimini di guerra presumibilmente commessi in Cisgiordania, compresa la costruzione di insediamenti, non impedirà a Israele di espandere ulteriormente quelle città israeliane. Questo non ci scoraggerà, non per niente, ha detto riferendosi all'annuncio del 20 dicembre di Fatou Ben Suda, che ha trovato basi ragionevoli per procedere con un'indagine sulla situazione in Palestina. Nella sua dichiarazione, che ha fatto a seguito un esame preliminare di 5 anni, il pubblico ministero ha stabilito che gli insediamenti israeliani nel territorio rivendicato dai palestinesi potrebbero costituire un crimine di guerra. Stai ascoltando Radio Bullets. Ucraina, le intelligence occidentali hanno decretato che l'aereo precipitato in Iran con 180 persone a bordo e 176 morti ieri non è stato abbattuto. La regione più plausibile resta il problema tecnico. Sul volo diretto a Kiev c'erano 82 iraniani, 63 canadesi, 10 svedesi, 4 afghani, 3 tedeschi, 3 inglesi e 11 ucraini, compresi 9 dell'equipaggio. Afghanistan, ancora impossibile avere i risultati delle elezioni presidenziali dell'ottobre scorso. La commissione elettorale sta ricontando i voti di un migliaio di seggi in 20 province. E mentre l'Indonesia celebrava il suo giorno nazionale degli eroi, i social media militari elogiavano il caporale Yunanto Nagrobi per i numerosi premi che ha vinto nel campo dell'IT. Junanto coordina una rete di siti web facilitati e finanziati dai militari dove pubblica propaganda pro-governo, sotto forma di notizie indipendenti, secondo i registri del web e le interviste della Reuters con i redattori di siti web, un ufficiale dell'intelligence delle forze speciali. I siti pubblicano contenuti che sostengono il comportamento dei militari e della polizia nel reprimere la rivolta separatista nelle province indonesiane di Papua, una lotta che è stata a lungo guidata dalle forze speciali d'élite del paese. Venezuela, Twitter ha sospeso più di una dozzina di account legati al governo e militari, tra cui quello del ministro del petrolio e comandanti di forze operative. I funzionari hanno immediatamente criticato l'azione poco dopo che sono stati sospesi senza alcuna spiegazione o annuncio da parte di Twitter, tra loro anche il ministro delle finanze e della banca centrale, che poi tutti sono stati riattivati. Bolivia ha aperto un'inchiesta su 600 funzionari dell'ex presidente Morales. E per oggi è tutto, notizia ridotto a causa dei problemi di connessione che ci sono in questo momento a Baghdad. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e darvi appuntamento con Paola Mirenda domani e una nuova raffica di notizie, sempre solo su Radio Bullets. Are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they E dopo un buon rock d'annata veniamo invece alla redazione di Radio Città del Capo, editore Netlit, che sono i ferri corti per piani della proprietà. Secondo i giornalisti, l'editore vorrebbe cancellare la cronaca locale della programmazione, snaturando l'identità stessa della radio. Lo stesso presidente di Netlit però ha replicato negando tutto e anzi dicendo che vuole incrementare la produzione. Abbiamo raggiunto il fiduciario di redazione, Giovanni Stinco. Radio Città del Capo ha un editore che si chiama Netlit SRL, che è un editore a base cooperativa. Nella società fra i soci c'è qualche problema, questo non lo dico io ma lo dicono i vari comunicati e le prese di posizione, e chi ha in mano la carica della presidenza, quindi il presidente di Netlit SRL, ha deciso di dare una svolta radicale alla programmazione di Radio Città del Capo, annullando, spazzando via la programmazione programmazione locale. Ora, per noi non è una scelta come tante altre, magari altre che ci sono state, che forse magari ci saranno anche, no? Che possono essere legittime, perché per noi lavoratori, redattori, redattrici, Radio Città del Capo è una radio che è nata a Bologna e che parla a Bologna. Quindi dire che non si fa più informazione locale su Radio Città del Capo vuol dire uccidere la radio. E in questi giorni c'è stata anche un po' una battaglia di comunicati, no? Perché al vostro ha risposto la proprietà, in cui sostanzialmente nega quello che voi dite, addirittura dice che vuole incrementare la produzione. Il problema, fammi capire se ho capito bene, proviamo. È che voi dovreste produrre cose che non riguardano Bologna sostanzialmente, generali per il network. Ecco, io non so bene che cosa dobbiamo produrre o dovremmo produrre. Io so che, per farsi un'idea, basta andare sul sito Radio Città del Capo, dove ci sono tre comunicati: la lettera dei lavoratori, quella del direttore che si dice molto preoccupato, e quella dell'editore che dice, si scrive così, no? In uno dei tanti passaggi: si è chiesto semplicemente di sospendere la sperimentazione dell'agenda quotidiana dedicata agli appuntamenti bolognesi, real time e plankton in onda, e di riproporre in altre forme multimediali. Allora, plankton era, perché ormai bisogna dire così, perché non va più in onda, il programma che raccontava la cultura a Bologna, 2 ore di pomeriggio, quindi un programma insomma fondamentale per la radio e per i nostri ascoltatori, che non c'è più, punto e basta. Poi come sarà riproposto nessuno lo sa. Real time, di cui parla l'editore, non esiste. Esisteva Tempo Reale, che è un programma che ha molti anni di vita. Insomma, quando io sono arrivato nel 2009 a Radio Città del Capo per la prima volta, già Tempo Reale esisteva. E qui ci sono questi termini, si parla di sperimentazione dell'agenda quotidiana dedicata agli appuntamenti, tra parentesi, real time. Cioè qui si usa il termine sperimentazione per raccontare l'attività e la vita di Radio Città del Capo, cioè quello che qui io e prima di me altri hanno fatto per 32 anni è definito sperimentazione. Cioè, per noi questo è inaccettabile. Ci sono stati contatti con la proprietà, tra di voi e la proprietà, da sabato oggi? C'è l'apertura di un tavolo sindacale che dovrebbe portare a una trattativa fra le parti, quindi sindacato da una parte, dall'altra l'editore, e poi in comune, non so ancora quello chiesto da Marco Lombardo. Quello chiesto dall'assessore Marco Lombardo. Ci sarà anche la regione, perché anche la regione ha annunciato di voler partecipare, quindi quello magari sarà un primo momento per avere dei contatti, diciamo così, migliori di quelli che ci sono stati fino ad oggi. Abbiamo lanciato una petizione online su change.org, il titolo è molto semplice: salviamo Radio Città del Capo, perché per noi è importante anche, come dire, far vedere quali sono gli ascoltatori di Radio Città del Capo anche attraverso i numeri. Insomma, è una cosa che ci dà anche forza come redazione e ci dà forza per continuare la nostra mobilitazione. Salviamo Radio Città del Capo su change.org. Nel vostro comunicato sindacale parlate anche del rischio di possibili licenziamenti o comunque di spostamento tra testate di personale. Non c'è un accordo sindacale, le famose clausole sociali che vi possano tutelare? Diciamo così, questa è una partita delicata su cui ci sono tanti piani. Io parlo da fiduciario di redazione, quindi ti posso dire questo: per noi la difesa dei posti di lavoro passa dalla difesa della testata, e quindi da Radio Città del Capo e da quello che vuol dire Radio Città del Capo, perché se prendo Radio Città del Capo e domani ci metto, non lo so, musica brasiliana, potrà piacere a qualcuno, ma gli ascoltatori smetteranno di ascoltare per il motivo per cui ascoltano ad oggi, no? Quindi per noi tutto passa dalla difesa della radio e del senso della radio, che vuol dire una radio che, come Radio Fujiko, ha le radici a Bologna, parla a Bologna, parla di politica, parla di cultura, parla di musica, lo fa nella maniera più libera possibile o tenta di farlo. Nel momento in cui quello non c'è più, se una radio non è più ascoltata, posti di lavoro vengono meno in automatico, ecco. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso è un rapporto davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio era poca ragione, nel vortice della passione, fare rifare l'amore per ore, per ore, per ore, aver poche cose da dirsi, paura da volte pentirsi, ed io coi miei sbalzi d'umore, e tu con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane, bugie per non farmi soffrire, ma a volte era meglio morire. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, stabile, che punti all'eternità. Adesso sembriamo due amici, adesso noi siamo felici, si litiga, quello è normale, ma poi si fa sempre l'amore, parlando di tutto e di tutti, facciamo 2000 progetti, tu a volte ritorni bambino, ti stringo e ti tengo vicino. Sincerità, scoprire tutti i lati deboli, avere sogni come stimoli, puntando all'eternità. Adesso tu sei mio e ti appartengo anch'io, e mano nella mano dove andiamo si vedrà, il sogno va da sé, regina io tu re di questa storia sempre a lieto fine. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Much about you. from a tree. Don't know much about the algebra, man. Don't know what a good slide rule is for. But I do know one and one is two, man, oh man. And I wonder if you love me too. Ooh, what a wonderful world it's gonna be. Segna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E buongiorno a tutti per questa giornata del 9 gennaio, giovedì, 9:30 minuti in punto. Direi che l'anno nuovo ha svegliato la bella addormentata nel bosco, ovvero sia la politica italiana e tanta opinione pubblica e giornali al seguito, che pensavano che tutto si risolvesse nel cortile di casa in un continuo battibecco tra centrodestra e centrosinistra. E poi improvvisamente si è scoperto che c'è una crisi internazionale. Tutti meravigliati. Come mai? Cosa sta succedendo? E allora veniamo a questo grande guerra, che qualcuno l'ha definita mondiale a capitoli. Si sta unificando questi capitoli, sta in qualche modo convergendo in una grande unica tragedia definitiva. Avvenire oggi apre con tregue armate, al plurale, perché si parla un colpo solo sia della pagina dell'Iraq sia della pagina della Libia, due fronti di battaglia appunto che tentano in qualche modo di congiungere una grande guerra africana asiatica. Conte senza l'oste, questo apre il manifesto, che cominciando dalla Libia allora, perché fallisce il tentativo, dice il manifesto italiano, di mediare tra Serraj e Haftar in guerra. Convocato da Conte, il premier libico diserta l'incontro nella capitale dopo aver saputo della presenza dell'uomo forte della Cirenaica, e intanto Erdogan e Putin ordinano il cessate il fuoco. Quindi vediamo chi sono i veri padroni della situazione, gli alleati vecchi e nuovi, da una parte Erdogan, dall'altra Putin, che dicono domenica si smette di sparare una volta che si è consolidato il campo di battaglia e poi spartirsi pipeline e petrolio. Perché Haftar non è venuto? Perché Serraj non è venuto a Roma con Haftar a parlare con Conte per una mediazione possibile? Il Fatto Quotidiano dà questa risposta: Conte si muove, Macron lo boicotta. Libia, asse tra il Premier e la Merkel. Haftar a Roma per discutere la tregua chiesta anche da Erdogan e Putin, ma al-Serraj decide di non partire, quel volo bloccato dall'Eliseo. Ancora una volta, quando si dice con la solita retorica un po' bolsa, un po' vuota e molto troppo frequentata fino ad essere abusata, l'Europa parli con una voce sola, beh, una voce sola ma diversi petroli, evidentemente. Conte un successo a metà, questo è il Fatto Quotidiano, che essendo filo Conte vede il bicchiere mezzo pieno, ma c'è molto anche di vuoto. Arriva Haftar ma Serraj no. Tre ore di dialogo col generale della Cirenaica, monito del primo ministro: non vogliamo un'altra Mogadiscio. Ricordiamo che l'altra Mogadiscio abbia come un capitolo fondamentale un intervento occidentale chiamato Restore Hope, restituire speranza, che ha aggravato se possibile la situazione e di molto. Tensione al Cairo, Di Maio non firma una dichiarazione dura verso il governo sotto assedio, perché troppo sbilanciato per la parte di Haftar, secondo Di Maio. Ma la Francia, sempre dallo stallo descritto dal Fatto Quotidiano, gioca da sole, spariglia la tattica di Roma. Appunto, la colpa del francese, anche perché è comodo dare la colpa su qualcun altro, tra le altre cose. Martedì gli italiani dovevano accompagnare i leader di Tripoli a Bruxelles, Parigi si è messa in mezzo, dice il Fatto Quotidiano in questo intervento. Il manifesto, sempre della serie, i veri padroni della Libia in questo momento non sono le milizie e i loro fantocci trafficanti di armi, di migranti e di petrolio, ma sono appunto i grandi sostenitori esterni. Al via il Tarsi Stream, Putin incontra Erdogan, il grande gioco energetico è descritto dal manifesto. Dopo Ankara a ricevere il gas russo, toccherà alla Macedonia e infine alla Serbia. Questo è il quadro. Poi abbiamo giornali, le burlette, i giornali italiani che sono sempre prese in questa infinita guerra, in campagna elettorale italiana. La Verità, siamo nell'estrema destra giornalistica, anche il premier di Tripoli prende cefone Giuseppi, e quindi gode la verità di questo insuccesso italiano, bisognerebbe sapere a tutti questi soloni della destra, del centro e della sinistra che dicono ci vuole un governo più partecipe, cosa vogliono, dicano di fare concretamente, ma tutti giocano al rimpiattino in questo senso, giocando sul fatto che al governo c'è quell'altro. Haftar a Roma, prove di tregua, invece dice il Messaggero da Roma. Libia, Conte vede generale polemico per la mancata visita di Sarraj, smentite sul sequestro, il premier dopo l'incidente, trattativa aperta, Putin ed Erdogan, da domenica stop alle armi, conferma anche il Messaggero, così come il Mattino di questa giornata apre con Erdogan e Putin, tregua in Libia, e dice da Napoli il Mattino, la Turchia e la Russia chiedono di cessate il fuoco, domenica stop alle armi, Haftar a Roma incontra Conte, salta la visita di Sarraj, voce di sequestro, poi la smentite. Una preta a scacchi, così la definisce Orsini dal Mattino, gli spiragli di pace e il ruolo dell'Italia, questo è l'Italia, in realtà ha molti interessi in Libia, a partire da quelli petroliferi, va da sé, delle aziende che colà operano. E dalla pagina del Corriere abbiamo Conte invece vede Haftar, l'ira di Tripoli, poi voci smentite su Sarraj rapito, ma c'è stato anche un trilling giallo degno di Agatha Christie, ma ora il pasticcio inquieti diplomatici, errore madornale ci costerà caro questo passo di Conte, ma Conte rivendica, ha raggiunto un primo risultato, il Colle è preoccupato per la difficoltà dell'Italia. Infine il Giornale, che naturalmente si compiace dei guai altrui, dilettanti senza frontiere, Conte, Di Maio, piacerebbe sapere che avrebbe fatto Berlusconi, che a suo tempo, pur essendo amico di Gheddafi, partecipò ai bombardamenti in Libia, che hanno distrutto la Libia e hanno dato il via a questo massacro. Organizzano un vertice sulla Libia risertato dal leader libico, Trump dopo il raid farsa, ora tratto con l'Iran, ma di questo parleremo più tardi, mentre Alessandro Sallusti nell'editoriale, che ha un po' il sapore da IP mancato, Europa togli i fiori dai tuoi cannoni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori, un buongiorno di sole, 9:36 minuti primi, continuiamo con l'esame delle pagine dei giornali. Prima Alfredo ha citato una specie di giallo che era sorto ieri pomeriggio e il re del gossip, il Resto del Carlino, ne fa appunto una notizia. Conte riceve Haftar e l'ira di Sarraj. Tripoli, c'è un giallo sulla sorte del premier, rapito appena rientrato in patria, poi la smentita, e sta di fatto che la mediazione è un flop e Mattarella raccomanda prudenza. Queste erano le notizie del Carlino, mentre la Stampa ci presenta una fotonotizia con Putin ed Erdogan che beffano l'Unione Europea per quello che riguarda la Libia, e sono fotografati insieme mentre girano una saracinesca del grande gasdotto Turk Stream, che dovrà appunto arrivare sulle coste della Libia per poi passare in tutto il mondo, Europa compresa. Stefano Stefanini apre con questo articolo in prima pagina, dice: ieri fra fantasmi ottomani e zaristi si è aperto uno spiraglio anche per la Libia, l'accordo turco-russo per il cessate il fuoco il 12 gennaio è frutto di un'intesa strategica più ampia fra Vladimir Putin e Tayyip Erdogan, sigillata sulle sponde del Bosforo. È una tregua, non una pace, è un'intesa politica, non militare, operativa, dipenderà dalle forze, dalle milizie sul terreno, far tacere le armi. E questo era un'altra cosa ancora. Repubblica, che interviene un guerrafondaio giornalista come Lucio Caracciolo, che dice: a Tripoli l'Italia ha dimenticato le tre regole d'oro. Quello è un articolo che vi segnalo appunto dalla prima pagina, che poi continua nei commenti all'interno, e dice: la Libia non c'è più dal 2011, ma il suo fantasma agita i nostri sogni al di là del canale di Sicilia. È in corso una furiosa guerra fra potenze per interposti miliziani e tagliagola. Noleggio, l'Italia non vi partecipa, ma rischia di essere la prima vittima. E le tre regole sono: se vogliamo contare in quel che resta della Libia o altrove, serve rispettare le tre regole di base. Primo, sapere quel che vogliamo. Secondo, individuare gli attori sul terreno con cui misurarci e negoziare. Terzo, avere a disposizione le risorse militari ed economiche anche per affittare clienti, come fan tutti, necessarie ad avanzare la nostra causa nel teatro libico. dove oltre 100 anni fa Giolitti mosse la grande guerra proletaria in cerca di un posto al sole, non abbiamo temperato ad alcuno dei 3 imperativi e siamo assenti dal 2011. Ancora qualcosa lo ritroviamo sul Sole 24 Ore, giornale della Confindustria. Libia e Putin ed Erdogan chiedono una tregua e c'è la gaffa italiana su Haftar, appello di Russia e Turchia per il cessato il fuoco. Da domenica Ankara invia 35 militari. Conte invita le due parti ma riceve prima il generale al-Sarraj e annulla l'incontro. Di Maio non firma il documento finale del Cairo per presentarsi in realtà alla riunione per la diplomazia in Iraq, Iran. E allora andiamo nell'altro corno principale della crisi internazionale, anche perché il terzo corno, quello perenne, lo Yemen, non gliene frega niente nessuno. E quindi il massacro continua nel grande silenzio. Invece c'è questo, come si dice giustamente, non un cerino ma un bazooka in una polveriera, quell'intervento assassino degli americani sull'Emaina. Lo schiaffo dell'Iran agli USA, questi sono missili e guerra mediatica. La risposta di Teheran sembra stata commisurata, almeno questa è l'opinione più generale, per dare una risposta molto forte di propaganda interna, ma non sufficientemente forte per aprire uno scontro finale. Quindi un'operazione Soleimani martire scatta di notte, qualche minuto prima della sepoltura del generale Soleimani e nel momento in cui lo scorso 3 gennaio gli USA avevano lanciato il drone uccidendo l'aeroporto civile di Baghdad, quindi molto mediatica, simbolica. I Pasdaran hanno risposto con una dozzina di missili balistici indirizzati contro 2 basi americane in Iraq. Secondo i media, i governatori iraniani che citano fonti le guardie rivoluzionarie, l'attacco aveva provocato almeno 80 morti, ma nessuno questi morti fortunatamente li ha trovati, quindi è più una esposizione di muscoli interna, ma questo non significa poi che mostra muscoli qua, muscoli là, la guerra non c'è già in corso e non si aggravi ulteriormente, anche perché Tommaso Di Francesco parla giustamente della tempesta perfetta, quelle condizioni che vanno a sommarci e creano una cosa irrisolvibile. E allora all'interno di questo articolo di Francesco si dice dove certi Stati Uniti uscivano con la coda tra le gambe dall'Iraq dopo aver fatto una terra bruciata di disastri, eccidi, distruzioni che ancora pesano. I vietnamiti, qui siamo in Vietnam, in Indocina, che combattevano, ci chiedevano di scendere in piazza perché a quello scempio doveva essere messa la parola anche fine. Ne andava di ogni trasformazione rivoluzionaria, a quel punto ridotta a improbabile ricostruzione forzata. Allora come oggi, continua Di Francesco dal Manifesto, invece la forza della ragione e della pace va chiamata subito in piazza a testimoniare. Lo hanno capito per ora solo i pacifisti americani, che hanno protestato in più di 100 città per dire no ad una nuova guerra all'Iran e ad una nuova guerra all'Iraq. Sono le ragioni della pace che devono far sentire alta la loro voce. In primo luogo il governo italiano deve tenersi fuori dalla guerra altrui, quella di Trump e dei suoi alleati, le nostre basi e dei nostri soldati. È una chiacchiera continuare a ripetere che li siamo ben voluti, la Siria dovrebbe aver insegnato qualcosa e infatti ripieghiamo timorosi, quasi ci nascondiamo temendo la reazione perfino di quei soldati iracheni che avremmo dovuto addestrare. Questa è la presenza coloniale che naturalmente può travestirsi da ramoscello d'olio ma rimane sempre tale, e ricordando tra le altre cose che anche l'ONU ha condannato come omicidio di diritto internazionale l'intervento di Trump, il suo omicidio tramite droni, e questo è quello che si legge. Poi se alziamo un po' lo sguardo e uscendo dalla cronaca passo per passo, missile dopo missile, vediamo che Trump ha una linea di condotta abbastanza lineare. Prima straccia l'accordo sul nucleare che Obama e l'Europa hanno stipulato con gli Ayatollah e poi fa un'escalation di guerra. Questo è al di là che oggi dica sono pronto, come dice Libero, prove tecniche di guerra, missili iraniani verso le basi russe in Iraq ma mancano il bersaglio, 0 morti. Questo è così, è solito Libero a forma di fumetti, un po' di deteriori. Cade un aereo a Teheran, forse per un attentato. Trump avverte il nostro potenziale militare limitato ma non vorrei usarlo, e propone secondo il Corriere un nuovo accordo, ma sono appunto tra gli stop and go. Direi che la direzione di guerra è evidente, e allora forse più interessante leggere quel che ci racconta Massimo Fini da Stelle Strisce del Fatto Quotidiano. E Massimo Fini non è certo un commentatore di sinistra, tutt'altro, ma è un giornalista senza particolari aggettivi intorno. Trump, un bowling verso l'atomica. L'assassino Soleimani, già chi lo chiama assassino, che se mi sembra la rinuncia di reazione non proporzionata alle mosse di Teheran. Così il presidente USA ha innescato il paradosso: per Iran and Company avere una bomba come deterrente di fronte alla sua minaccia diventa necessario. Infatti la triste insegnamento di questi anni è che chi c'è la bomba atomica si fa rispettare, vedi la Corea del Nord, che è del tutto irrispettabile come la bomba. Questo è il quadro. Ma il parallelo con il passato sull'Iraq, pensate alla terza guerra in Iraq, non la seconda, la terza, perché la prima fu patrocinata dall'ONU ma fu una guerra come le altre nel 91. L'azzardo, il rischio del pantano di Bush Junior, gli alleati chiamati a fare pressioni non interverranno, Rouhani non è così malleabili. Esulta alle borse, giù oro e petrolio. Questo per il discorso di Trump e per la così l'intervento misurato tra virgolette dell'Iran, che tra l'altro sembra abbia anche avvertito prima l'Iraq, poi che a sua volta ha avvertito gli interessanti per evitare appunto conseguenze senza ritorno. Sì, riguardo alla crisi Iran-Iraq scatenata da quel guerrafondaio di Trump, le pagine della stampa riportano dei retroscena e che in realtà ci dice Giordano Stabile da Beirut che il governo di Iran non è così unito, è diviso tra gli oltranzisti fedeli alla linea dei Pasdaran e i riformisti, tra cui Khamenei, Rouhani e Zarif. Ci parla appunto degli schiaffi di Khamenei al dialogo di Zarif, ci sono le due anime sul regime. La guida Khamenei vorrebbe, la guida suprema vorrebbe continuare a colpire, Rouhani cambia tono e modera. E come altri giornali ancora che adesso esamineremo, c'è sempre un occhio attento a cosa succede alle nostre truppe in Iraq. C'è un caso, ci raccontano sempre Nicola Pinna sulle pagine della stampa, la lunga notte nel freddo dei bunker, gli italiani non si stavano aspettando questo raid aereo dei vettori iraniani, ma allo stesso modo erano dentro ai bunker e in un piano di emergenza, prima ancora che l'allarme nelle camere della base italiana, si è sentito un fortissimo boato. Prima uno, poi degli altri. A quel punto si è capito che la minaccia iraniana era immediata controffensiva dopo la morte di Soleimani, era stata mantenuta. Qui la situazione era calma, del caos di Baghdad era arrivata solo l'eco, racconta un ufficiale dell'esercito italiano sulle pagine appunto della stampa, mentre per quello che riguarda le pagine di Repubblica, per quello che riguarda la crisi medio orientale, Trump offre la pace all'Iran, pagina 2 di Repubblica, Anna Lombardi, l'inviata appunto da New York, dopo i missili sulle basi USA, Teheran risponde all'uccisione di Soleimani con un doppio attacco in Iraq, dove si trovano anche i militari italiani e gli iracheni avvertiti prima del raid, che si conclude senza vittime. Il presidente minaccia comunque nuove sanzioni. Per ora Donald vince la scommessa degli Ayatollah e offre la pace o la tregua in cambio di nuove sanzioni da proporre. E anche qui c'è un articolo che è un reportage di Giampaolo Cadalanu che ci parla appunto della notte degli italiani a Erbil, la base dove è dislocata la pattuglia dei 1000 italiani in Iraq, e c'è anche la notizia del Boeing dell'aereo ucraino precipitato a Teheran con 176 morti. Ci sono dubbi sullo schianto, ma l'ambasciata di Kiev esclude atti di terrorismo o missili, ma poi ritira il comunicato e non vuole fare speculazioni su questa notizia, su cui rimangono moltissime le incognite, e sta di fatto che ci sono 176 morti. Ancora le pagine del Carlino, Trump e l'Iran, una guerra per finta, sono stati avvisati in America del raid che stava per arrivare, e ancora le notizie sono interessanti. Carlino appunto fa un parallelo in due pagine, pagina 4 e pagina 5, tra Libia e Iraq. Il veterano dei nostri paracadutisti: se la missione cambia, noi andremo via dall'Iraq. Il generale Bertolini critica Trump: non possiamo seguire sempre gli USA. Soleimani ucciso a tradimento. Sì, c'è stato ieri questo ennesimo fatto più che luttuoso, l'incidente aereo nel decollo da Teheran. Teheran, il giallo sul Boeing in ucraino, dice il Corriere, caduto in fiamme dopo il decollo. Leonardo Barberi dal giornale di Milano: il caso dei fori sul velivolo, le vittime sono 176, dalla cabina non sarebbe partito alcun allarme. Le prime immagini da satellite mostrerebbero il surriscaldamento di uno dei motori. Naturalmente l'Iran, credo è comprensibile, si rifiuta di consegnare scatole nere ai tecnici americani per darle ricostruzione. Direi che sarebbe curioso il contrario. E infatti Guido Olimpio dice: servono certezze e prudenza, esplodono teorie. Questo è uno dei tanti, è l'uso delle notizie come uso di guerra, senza mai sapere com'è andata la cosa veramente. E siccome Trump ha minacciato di bombardare i siti archeologici, la cultura iraniani, iracheni, allora il progetto è una bandiera bianca sui siti archeologici per evitare appunto non bombardon. Ma si parlava appunto di presenza pacifista, e allora non posso non segnalare che questo pomeriggio all'Abbas ci sarà un'assemblea perché prepara la manifestazione di sabato prossimo in difesa del Rojava e della rivoluzione femminista delle donne curde. Naturalmente in questa grande macchina di guerra rischia di essere schiacciato l'unico anelito di libertà, che è quello della resistenza curda. La manifestazione è promossa dai movimenti sociali bolognesi. Noi abbiamo raggiunto l'aura di non una di meno e sentiamo appunto le sue parole. Torniamo in piazza, come dicevi anche tu, in un momento in cui l'attenzione sul Rojava e quindi sulla Siria del nord e dell'est sta calando, nonostante la situazione sia sempre più drammatica e appunto gli attacchi continuano, la situazione non migliora, e quindi abbiamo raccolto, diciamo, l'appello arrivato dalle compagne e dai compagni del Kurdistan e dalla rete del Kurdistan dell'Italia. Tutto è cominciato, ricordiamolo, nell'ottobre scorso, quando la Turchia unilateralmente decise di invadere appunto la Siria del nord e dell'est. Nel silenzio, ho letto un comunicato appunto vostro, anche nel silenzio della comunità internazionale. Sì, esatto, nel silenzio, o anche, diciamo, possiamo dire in un tacito appoggio, nel senso che sia l'Italia che l'Europa, ma altri stati, non hanno realmente fermato questo attacco e continuano ad avere rapporti sia economici, diciamo democratici, con la Turchia di Erdogan. E anche per questo abbiamo deciso di tornare in piazza e far sentire il nostro appoggio rispetto alla rivoluzione del Rojava e la nostra accusa, diciamo, rispetto a questo appoggio. Quali sono le peculiarità della rivoluzione del Rojava che voi volete sottolineare? Per noi il Rojava rimane un punto di riferimento per chiaramente la rivoluzione femminista, che ormai è attiva e cresce, diciamo, nel progetto appunto del popolo curdo. La messa in discussione, diciamo, dei sistemi capitalistici, razzisti e patriarcali che questa lotta è riuscita a mettere realmente concretamente in discussione, per noi è, come dire, è una fonte continua di riferimento e qualcosa a cui guardare come appunto una rivoluzione possibile, concreta, reale, e che ormai è in atto da diversi anni, ecco. La manifestazione di sabato sarà preceduta da un'assemblea cittadina di non una di meno che si svolgerà domani alla BA, giusto? Esatto, domani abbiamo colto l'occasione, diciamo, per invitare qui a Bologna che probabilmente molti conoscono già, per confrontarci insieme a lei, ma in generale in un incontro che vorremmo avere in una forma assembleare, quindi aperta, appunto un confronto su perché noi stesse ci interroghiamo, guardiamo, diciamo, a questa rivoluzione, e vogliamo anche confrontarci rispetto all'esperienza appunto di Eddie che è riuscita ad avere direttamente in Rojava. Magari per chi non lo sa, Eddie insieme a Paolo e Jacopo sono appunto tre combattenti che hanno combattuto l'ISIS in proprio in quei territori, che ora il Tribunale di Torino, perlomeno l'accusa, vorrebbe sottoporre a sorveglianza speciale. E invece, ecco, come si svolgerà la manifestazione di sabato? Il ritrovo è per le 15 in piazza 20 Settembre e da lì partiremo, faremo un giro, diciamo, in centro a Bologna. Niente, cercheremo di essere come sempre forti, di farci sentire, di appunto di mostrare in una maniera anche concreta appunto il nostro supporto a questa lotta. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Sì, colleghiamo questa lunga pagina giustamente dedicata a quello che il manifesto chiama 20 di guerra, con il solito gioco di parole tipico del giornale, 20 in senso di cosa che soffia brutta, e 20 2020. La Cina non solo gli ha dato là, sotto tiro USA nel Medio Oriente, Teheran ha un ruolo di primaria importanza nella nuova via della seta di Pechino, sono 400 gli investimenti, nel 400 miliardi nella industria petrolifera gasiera e 900 per le infrastrutture in Africa, in Asia, quindi è molto interessata a questa vicenda. E contropiano, infatti, il giornale comunista online in qualche modo corregge questa notizia: la Cina si schiera con l'Iran, l'escalation richiama quella che portò alla prima guerra mondiale. Queste sono le varie postazioni in campo. Ma veniamo alle guerre di casa nostra, quelle invisibili, quella della gente che lavora e che viene massacrata per portare a casa un pezzo di pane. Allora vengo a Silvio Messinetti da Gioia Tauro e si parla del migrante che denuncia i caporali sgominata la tratta dei braccianti. In Calabria sono 20 gli arresti. L'inchiesta è partita dopo la ribellione di un lavoratore schiavizzato, sequestrate tre aziende agricole. Lavoravano anche 12 ore al giorno per soli 2 euro all'ora. I PM, il pubblico ministero, dicono un buon segnale, non dalla politica, perché al piano di Gioia Tauro, per esempio, ci racconta ancora il manifesto con Messinetti, a 10 anni dalla rivolta di Rosarno, dove non, niente è cambiato, quindi tanti discorsi anche cuore in mano, pieni di retorica, ma nulla è cambiato. A San Ferdinando le ruspe di Salvini hanno creato solo una nuova vicina baraccopoli. Questo è l'uomo del pugno di ferro, che in realtà non cambia solamente nulla, se non assecondare una simbolica vendetta di un'opinione pubblica assetata di sangue. Ma andiamo invece ad altri temi che riguardano il lavoro. Ne abbiamo già parlato anche in apertura, e riguarda Bologna, riguarda le radio, riguarda l'informazione. Ipotesi works boy out per Radio Città del Capo. Dunque, a meno di 3 settimane dalle elezioni regionali dell'Emilia Romagna, l'azione politica e sindacale del capo è massima, dice il manifesto. Il presidente della regione emiliano Stefano Bonaccini ha incontrato la redazione e ha detto che farà tutto il possibile per una soluzione positiva dell'avvertenza, e ha ipotizzato l'uso del fondo regionale per editoria e l'informazione. Ma Giovanni Stinco, fiduciario che siete anche noi, risponde alla proposta che arriva dalla proprietà, cioè di sostenere di voler rilanciare il progetto editoriale, e propone ai redattori della società storica emittente bolognese l'ipotesi del workers buyout, ovvero il riacquisto della società realizzata dai dipendenti, verrà anche detta anche impresa rigenerata. Questo è, e su questo Stinco dice: di questo non abbiamo ancora discusso, e perciò sentiremo se sono una proposta seria o meno. Vengo da girando per il mondo del lavoro, vado dall'Italia. Tempi lunghi per Neuco e Pubblica e revoca per l'Atlantia. Il ministro Patuanelli, strada stretta, il 31 maggio non è e si scopre che i Benetton proposero una pesante ristrutturazione. Questo era il Benetton che voleva mettere appunto un piede anche negli aeroporti. Audizione della Camera, Ferrovie dello Stato racconta caos e pressioni della cordata con Delta. Quindi tutto meno che una cosa lineare, mentre abbiamo il secolo XIX, quindi parliamo dalla Liguria, città, una regione estremamente colpita da questa vicenda di viadotti e autostrade. Dice Autostrade: maxi multa per evitare la revoca e la battaglia in tribunale. Rabbia dei sindaci del Ponente, Ligure per i cantieri protestano anche a Sanremo. Sì, grazie. A questo punto Alfredo ha sottolineato l'articolo di Stinco sul Manifesto e a questo punto diciamo apertamente che la nostra emittente si schiera a favore di questi lavoratori che rischiano il posto di lavoro a Radio Città del Capo. Ma continuiamo sul tema del lavoro prendendo le pagine del Sole 24 Ore, due articoli, uno di Pogliotti e l'altro di Tucci, perché il capitolo del lavoro entra ufficialmente nella verifica di governo, anche se il confronto è destinato a slittare a dopo le elezioni regionali. Il Movimento 5 Stelle e l'EU chiedono la reintroduzione dell'articolo 18, ma ciò spinge PD e Italia Viva ad estendere il confronto anche al decreto dignità, al reddito di cittadinanza e agli ammortizzatori sociali. E vi segnalo un'analisi del vice direttore appunto del Sole 24 Ore, Alberto Orioli, che si schiera contro l'articolo 18 e dice: siamo sicuri che la nuova decade, appunto da partire dal 2020, debba ripartire da un dibattito da archeologia ideologica, la chiama, come l'articolo 18. Il tema torna prepotentemente nell'agenda della discussione politica e la maggioranza cerca nuove bandiere comuni e le trova, guarda caso, rovistando nel vecchio baule dei ricordi del Novecento. Che si affronti il tema delle tutele nel caso dei licenziamenti collettivi è un conto, la norma italiana è a prova di Unione Europea. Un altro è rispondere alla discussione radicale sulla reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, grimaldello per una revisione dell'articolo dell'intero Job Act. È un modo per cercare di riserrare i ranghi delle forze politiche allo sbando senza la guida sicura dell'articolo 18. Potrebbe consentire un fronte unico tra sinistra e l'EU, ma una parte dei 5 Stelle, perfino la frangia del PD, che attende da tempo una vendetta verso l'eredità renziana. Sullo sfondo pesa l'influenza della CGIL di Maurizio Landini. E c'è appunto ancora un articolo di un'intervista di Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, sulle pagine di Repubblica, che ci fa appunto, ci dice che il reddito cittadinanza non funziona, la povertà non l'abbiamo abolita e il reddito può essere migliorato per tenere conto dei figli a carico e non penalizzare i lavoratori stagionali. Povertà ridotta del 60% invece sembra di no. Oggi il reddito è distribuito fra 1 milione di nuclei familiari. Ancora passiamo ad altri argomenti che riguardano appunto i nodi del governo, le autostrade, la mossa del PD, la maxi multa anziché la revoca alla società dei Benetton, maggioranza divisa anche sulla prescrizione, oggi il vertice, Zingaretti e la fiducia di Conte. E chiudiamo con la cultura e l'istruzione, ignorata dalla manovra, l'università inizia la rivolta, racconta Roberto Rottuno dal Fatto Quotidiano. I delusi e le richieste scendono in piazza per la prima volta del 2020, chiedono 1,5 miliardi per la università, perché oggi gli Atenei, spiega così l'articolo, si reggono sui precari. Nel 2018 il personale era formato da 47.000 stabili e 67.000 contratti a termine. Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna? Alle 7:15 mi sono svegliato, mi sono lavato, mi sono vestito a fare colazione e sono andato sperando che mio padre fosse già uscito. Ma eccolo che entra e mi fa gli occhiacci, era un corcasso di mortacci. Mi dici vai a lavorare tu pista, che sei il primo della lista. I tuoi fratelli devono studiare, e a te caro bello ti tocca ruscare. Forzanza al culo, dato da fare, che cosa qualche lire devi portare? Collocamento sono andato, ho fatto un accordo da primato e dopo 6 ore di quella tortura allo sportello l'ha messo giù duro, yeah. Mi hanno detto sei disoccupato, ma in che cosa sei specializzato? Gli ho detto so suonare blues, sono intonato, insomma sono un cantautore nato. Mi hanno risposto, non ce ne frega niente, non mi prende per un deficiente. Gli ho detto lei non sa con chi ha a che fare, sono un bluesman, me la so cavare. dai, meno 526, alright. Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna? Do you wanna dance? Alright, baby, come on. Sala per provare un mercio all'incaggio dei sassofonisti, una tournée nei festival comunisti, yeah. Alright, mi son detto ce l'ho fatta, sono lanciato, sto per sfondare, sono arrivato, ma come prevedibile non ho sfondato, mi sono di nuovo disoccupato. Che numero c'hai? Che numero c'hai? Che numero c'hai? 526, alright, alright. Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna dance? Do you wanna? Do you wanna? Do you wanna dance? Everybody, alright. Take your mouth up. Everybody, everybody, everybody. Disoccupato Rappo e Truthy Brothers. Dunque, veniamo invece alle questioni ancora aperte, tutte aperte, i nodi sul tavolo della maggioranza. Passiamo in esame un po' come volo d'uccello, anzi volo di drone, si dice oggi dopo Trump. Legge elettorale, ecco il testo, la maggioranza parte divisa. Proporzionale con sbarramento nazionale del 5%, il diritto di tribuna. L'EU non è favorevole. Naturalmente uno si domanda perché il 5, il 4, il 3, non il 6 o viceversa? Perché la maggioranza lima questo minimo della soglia di entrare in Parlamento rispetto ai propri sondaggi. E siccome Renzi è un po' per il 5, diventa il 5. Leo che sotto è contrario, cioè questo è tutto il senso del dibattito, è questo. Botto un colpo prima della Corte, il referendum della Lega non è più dato per spacciato. Questo quindi potrebbe essere un referendum della Lega per ritorno al puro maggioritario. L'iter sarà lungo e difficile, in caso di voto anticipato c'è il Rosatellum con la soglia al 3%. Questo è il manifesto sul prima dei vari problemi aperti. L'altro problema appunto è quello legato alle prescrizioni. Proposte di Davigo, che viene molto amplificata dal Fatto Quotidiano, che ne fa un proprio testimonial. Chi vuole processi brevi mantenga la blocca prescrizioni e faccia così. Reformatio in peius, in appello, freni contro i ricorsi pretestuosi e pene più alte per chi ostacola la giustizia ed altre idee. Molti fascicoli, dice Davigo, arrivano ai PM quando manca poco la prescrizione, perché il reato si è scoperto anni dopo. Le tattiche degli avvocati, per la carta la pena va anche funzione rieducativa, chi ricorre solo per rinviarla differisce la rieducazione. In USA, fa un esempio Davigo, la prescrizione durante il processo non esiste, in Europa come la nostra ce l'ha soltanto la Grecia, gli altri sono tutti dei barbari, si domanda Davigo, che naturalmente è tra il fronte dei tra virgolette giustizialisti, come li chiamerebbero altri. Ancora, a proposito di giustizialisti a senso unico, Salvini, che giustizialista con tutti meno che con se stesso, processo Salvini, l'ora delle scelte, duello sul voto prima delle elezioni, Gaspari presenta la sua proposta, incertezza sui tempi, dal 20 i lavori del Senato sono sospesi. Questo è quello che ci racconta il Corriere sull'argomento. C'è l'Emilia, il voto sulla Gregoretti va verso il rinvio, dice anche il Fatto Quotidiano, è il tema che arriva. E poi andiamo invece alla pagina politica del centrodestra, perché abbiamo due cose contrastanti. La prima è il Giornale. Sorpresa, la Meloni supera Salvini, ultimi sondaggi, centrodestra al 50%, sorpasso nel gradimento. Per Berlusconi un destino segnato, invece dice il dubbio, la notizia, scusate, giornale 5 Stelle, per Berlusconi è destino segnato a Roma, Forza Italia trasloca tutta all'interno della Lega Nord, Lega e basta. Ancora politica, le pagine della Stampa, Amedeo la mattina fa mette un punto interrogativo e dice ma cosa c'entra l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il sequestro di persona con il voto del 26 gennaio in Emilia Romagna? Apparentemente nulla, ma la maggioranza vorrebbe che il via libera al processo venisse fatto slittare dopo la prova elettorale. È chiaro che il leader leghista ne farebbe un'arma contundente, si trasformerebbe in una vittima perseguitata dalla giustizia per farlo fuori politicamente. Alla fine è finita la giunta del Senato per l'autorizzazione a procedere voterà il 20 gennaio. Il risultato sfavorevole al leghista è scontato, ma l'ex ministro dell'interno salirà sul palco del perseguitato, il presidente Gasparri, oggi presenterà la sua proposta di richiesta di autorizzazione a procedere nei prossimi giorni e seguirà la discussione. Quindi si va avanti verso il voto con i 5 Stelle ormai determinati a votare contro l'ex alleato che invece avevano salvato dal processo nell'analogo caso della nave di Ciotti. La difesa di Salvini, ha detto alla Grillina Elvira Evangelisti in giunta, ci appare debole, non ci sono prove di un'azione governativa con un preminente interesse pubblico. E ancora sulle pagine della Stampa si parla delle elezioni regionali in Emilia Romagna, Bonaccini contro la candidata fantasma fra virgolette, io sono sempre qui, dice in un'intervista, senza bisogno della baglia, al contrario della mia diretta concorrente della destra. Ancora da Repubblica prendiamo appunto notizie di politica. Meloni ruba voti a Salvini e il 27 chiedo elezioni anticipate. Alla sorella d'Italia, appunto la Meloni, il 33% del gradimento, un punto in più del leader in Emilia Romagna e in Calabria, vinciamo e Mattarella dovrà tenerne conto, sbraita dal palco appunto dove ieri in Emilia era per la campagna elettorale. Secondo i sondaggi il suo partito è al 10,7%, sono gli elettori di destra che erano finiti con i 5 Stelle, dice lei. E a questo punto ancora di politica si parla sulle pagine del Sole 24 Ore, due ministri nel Palazzo di Trastevere, il decreto divide istruzione e università, già una notizia ripresa anche da Alfredo poco fa. In Emilia Romagna è ridotto il vantaggio di Bonaccini, ci dice Mariolina Sesto appunto dalle pagine del Sole 24 Ore, e si parla anche della nuova proposta di legge elettorale, sia proporzionale alla tedesca, ma l'EU non è d'accordo. Accordo fra Movimento 5 Stelle, PD e Italia Viva sulla soglia al 5%, al di sotto un diritto di rappresentanza. E allora andiamo al Libero, che è una rivelazione importante, con tanto foto con un Gesù che è il più classico Gesù da icona, con dietro anche un fascio di luce divino, ed è il vescovo di Trieste, dice giù le mani da Gesù, da Libero. Cari intellettuali, Cristo non è gay, pedofilo, sardina, che secondo il vescovo di Trieste gay, pedofili, sardine sono tutte la stessa roba. Una volta erano drogati, cappelloni, rock and roll, adesso sono gay, pedofili, sardine. E ora parliamo di sardine, allora, che non so quanto voglio mettere mani su Gesù, ma il Libero e il vescovo di Trieste ne sono convinti. Sardine, il doc su due mesi di piazza, tra i protagonisti del movimento raccontano chi sono i 6.000. Le sardine fanno il pallone, è il titolo del documentario che prende il punto della canzone che De André scrisse con Ivano Fossati nel 96, allora erano le acciughe fanno il pallone. E proprio da Genova parte il reportage in chiaro da domani su Loft, ideato da Cinzia Monteverdi e Marco Travaglio, scritto da Matteo Billi, Shadi Cioffi e Duccio Forzano, con la regia di quest'ultimo. 30 minuti circa per raccontare quel vortice che le 6.000 sardine partendo da Bologna hanno creato in meno di due mesi. Devo dire che a parte le grandi prese presenti nei capoluoghi e anche a Roma, Piazza San Giovanni, per esempio l'ultima anche a Faenza, e con centinaia di persone a Faenza, migliaia di persone a Faenza, non sarà mai vista la piazza così piena. Confronta ai 200 persone che hanno assistito alla piazza di Salvini, diciamo che la battaglia delle piazze è vinta, adesso c'è quelli invece. Delle urne, che è chiaramente più importante in questo caso, ma ci sarà il 19 un'altra nel pentitiero di Bologna delle Sardine. Allora Sardine ospiti di Sardine anche la casa politica per la piazza del 19, già 300 sistemazioni con il passaparole, quello che il Corriere chiama l'Airbnb delle Sardine, cioè si dà ospitalità a quelli che vengono da fuori. Nel frattempo il Carlino dice salgono i 5 Stelle, scende Bonaccini. Regionale, il sondaggio di notte, Carlini ago della bilancia, stabile la Borgonzoni, governatore avanti di poco. Devo dire che il Carlino ha già detto che era avanti di poco poco tempo fa. Se il PD scende o il centrosinistra scende o Bonaccini scende, in qualche modo c'è il sorpasso, ma sono sì, sondaggi che fatti un po' così, abbastanza tanto al chilo. Ma detto questo, mentre Bibbiano l'affondo del PD contro la Lega, paghi post sui social network sul caso per raggiungere i minorenni dai 13 ai 17 anni, quindi chi sono i pedofili da social network. Scintilla al tribune elettorale in Rai, sondaggio porta a porta, Bonaccini avanti di un soffio, conferma comunque anche il Corriere in questa nostra giornata che appunto è passata da Bologna per venire poi all'ambiente, quindi do la parola ad Andrea. Sì, notizie sconfortanti arrivano dall'ambiente. Partiamo dalla cronaca locale. Dopo Bologna, polveri sottili, oltre i limiti di legge, Bologna torna a essere fuori legge. Dopo 5 giorni di tregua, ieri il capoluogo ha sfiorato il limite consentito. Anche Emilia Romagna, ora anche Bologna, si aggiungono all'elenco delle aree afflitte dalle polveri sottili PM10. Dopo aver temporaneamente beneficiato delle brezze appenniniche, ieri Bologna ha superato di nuovo la soglia di 50 microgrammi di particolato per metro cubo di area. Lo sconfinamento non è stato particolarmente rilevante, però insomma siamo già a livelli estremi, ma tenendo conto delle previsioni della settimana, con l'anticiclone e la quiete atmosferica, la concentrazione è inevitabilmente destinata a crescere o perlomeno a durare, quindi attenzione ai polmoni, cari ragazzi. E ancora si parla di ambiente nelle pagine del Sole 24 Ore, la qualità dell'aria, c'è Jacopo Giliberto che ci dice che è migliorata negli anni. Però intanto restano troppe le polveri e Torino ha fermato anche gli Euro 5 nella pianura padana, però se scende l'ossido di azoto, ma l'ozono rimane molto alto. Le centraline che fiutano l'aria del bacino padano e della pianura veneto-friulana confermano che l'inquinamento è in riduzione da molti anni. Ogni anno l'aria del piano padano è sempre meno polverosa, l'emigrazione di industrie, la terziarizzazione, la dematerializzazione dell'economia e le attività più sensibili, le tecnologie migliori per produrre e consumare, dagli impianti di riscaldamento ai motori e ai veicoli. Ma ci sono i nemici dell'aria. L'aria dell'Alta Italia è più sporca per due motivi. Primo motivo, la parte più popolosa, industrializzata e trafficata con l'agricoltura intensiva del paese. Secondo, fra le Alpi e gli Appennini, il bacino è un accumulatore e non disperde l'aria, soprattutto d'inverno, quando per l'inversione termica padana l'aria fredda trattiene e schiaccia il suolo, quella calda e sporca. A ciò pare aggiungersi anche il cambiamento climatico. Va di moda ma attribuire una qualsiasi nefandezza al riscaldamento globale, ma in questo caso il fenomeno del clima sembra un alleato dello smog padano, è un nemico dei polmoni. I lunghi periodi di siccità appaiono ricorrenti e più lunghi, se non piove non c'è vento e la sporcizia rimane nell'aria. Ancora notizie che riguardano l'ambiente, le andiamo a prendere dalle pagine di Repubblica, dove ci parla dell'Australia. Dopo gli incendi di Kangaroo Island, l'isola è piena di carcasse di animali, la biodiversità che l'ha resa famosa ora rischia di scomparire, e c'è Greenpeace che ha lanciato l'allarme: oltre 1 milione gli animali che sono morti nel corso di questi giorni. E ancora 8,3 milioni sono gli ettari bruciati in Australia, è un'area pari quanto l'Austria, e 30.000 sono i koala che sono, e 180 le persone denunciate. Ci sono anche molti minorenni che si sono diventati piromani per chissà per quali oscuri motivi. Ancora la notizia, ancora una cosa sulla stampa che riguarda l'ambiente: disboscamento di Posillipo, colpo al cuore dei napoletani, il comune abbatte 230 alberi. E c'è un'intervista alla ministra De Micheli e dice che non possiamo permetterci di continuare a respirare ancora aria inquinata, e il piano antinquinamento del governo alle regioni saranno destinati 2,2 miliardi per i bus ecologici. E veniamo allora all'extraterrestre del manifesto, che si presenta questa honoris causa: una fondazione olandese formata da 886 cittadini ha trascinato in tribunale il governo di Amsterdam, ottenendo una sentenza definitiva che lo obbliga ad impegnarci concretamente contro l'emergenza climatica. Maria Minesma, 54 anni, presidente e fondatrice dell'associazione, è la protagonista di questa madre di tutte le cause ambientali. All'extraterrestre racconta le tappe di questa vittoria storica e le 50 misure suggerite all'esecutivo come modello da seguire per tutti i paesi, e vorrei aggiungere anche Italia compresa. Va peggio in Messico, perché leggo l'estrattivismo del che uccide in Messico. Andrea Cegna: in Messico il governo aggredisce il territorio con le grandi opere mentre gli indigeni lottano e sono uccisi. Questo è il tema che arriva dal Centro America. Parlavi degli incendi, si sta congiungendo i grandi fuochi dell'Australia, creando un fronte in quel caso lungo 1000 chilometri, lungo quanto la nostra penisola italiana. E anche l'Amazzonia racconta un flash di questa mattina: incendi boschivi nel 2019, si fanno i calcoli, più un 30%. Non è che l'anno prima fosse bruciato poco, Il numero di incendi boschivi nell'Amazzonia brasiliana è aumentato del 30% nel 2019 rispetto all'anno precedente, lo rende noto l'Istituto Nazionale per le Ricerche Spaziali del Brasile. L'aumento viene maggiore nel Pantanal, la più grande zona umida del paese, santuario della biodiversità, con 6 volte più incendi in un anno. Un totale di 89.178 roghi sono stati registrati nell'Amazzonia brasiliana nel 2019, nel 2018 furono 68.345. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più. Laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami in fior, c'è un nido semplice, come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? L'ottimo Claudio Villa, la strada nel bosco, quello quando c'erano i boschi. Ma da questo passaggio veniamo invece a notizia triste, perché è morto Italo Moretti. Notizia arriva questa mattina, un giornalista con la G maiuscola davvero. È morto a 86 anni. Famoso inviato della RAI in Sud America, è morto questa mattina a Roma all'età di 86 anni. Iniziò la sua carriera, ricordiamo, 17 anni, collaborando a Perugia con le redazioni locali dei quotidiani nazionali. Entrò in RAI nel 66, si occupò di sport, cronaca politica interna e politica estera. Nel 68 iniziò il suo lavoro in America Latina, in Cile, Argentina, Uruguay, raccontò dei regimi golpisti e autoritari di quei paesi. Nel 95 assunse la direzione del TG3, per poi diventare dal 96 al 98 condirettore del TGR. Sentiamo alcune sue parole quando fu premiato dal premio Ilaria Alpi. Per la scelta di una rosa per ogni singola tipologia del premio, una rosa che poi sarà valutata a Roma in una seconda riunione. Devo dire che queste prime 24 ore, sul piano della qualità, confortato anche da quello della quantità dei servizi, confermano che il premio Alpi è ormai indubitabilmente il punto di riferimento più qualificato, più importante del giornalismo televisivo italiano. E questo, Rita Moretti, un nostro saluto così breve ma davvero sentito, anche perché mi ricordava adesso il nostro direttore, una delle prime interviste fatte a suo tempo, quindi è un personaggio che fa parte di una editoria e in formazione indipendente e anche coraggiosa, quindi lo salutiamo davvero senza nessuna retorica. La cronaca italiana, allora andiamo a questa notizia: stragi legali di Cavallini, finora ben 65 magistrati lo hanno ritenuto innocente, questa è la difesa del fascista, la ringa degli avvocati, la sentenza forse già oggi. L'avvocato Pellegrini: il processo a una persona a 40 anni di distanza è inumano, in base ai principi del nostro ordinamento molti testimoni sono morti o piegati dall'età. Il problema è che c'è chi poi chi la longa la scappa, questo è l'altro aspetto della medaglia. Ma invece vengo a questa notizia: muore assiderato a 10 anni nel carrello del jet per l'Europa. Quindi torniamo al dramma dei migranti, trovato a Parigi in quelle stragi silenziose, si era nascosto lì dentro alla partenza in Costa d'Avorio. Sì, riguardo al dramma dei migranti segnalo un bell'articolo nelle pagine di cronaca italiana da parte di Roberto Saviano, che ci parla appunto di questo bambino morto in aereo sognando l'Europa. Di lui non si conosce il nome, nemmeno l'età, una dozzina d'anni si legge nei comunicati. Era partito dalla Costa d'Avorio nascosto nel carrello, il corpo è stato trovato a Parigi dopo oltre 6 ore di viaggio sotto zero a meno 50 gradi. La sua tragedia è un atto di accusa contro la nostra indifferenza, ci dice appunto Roberto Saviano. Ma ancora riguardo i migranti, sempre dalle pagine di Repubblica, dopo il taglio della spesa per ogni migrante accolto e il colpo di spugna sull'integrazione, e tante associazioni si tirano indietro, metà dei posti restano scoperti, già a casa 5.000 lavoratori e c'è l'allarme dei migranti, l'accoglienza è in ginocchio. E c'è Filippo Miraglia, del coordinatore del tavolo dell'asilo, che dice: al governo chiediamo più coraggio, non ci interessa fare gli albergatori, ma vogliamo fare un'accoglienza come si deve. E sull'accoglienza allora chiudiamo in qualche modo, chiudendo anche il cerchio della nostra mattinata della Sena Stampa, che perché le guerre creano, l'ambiente crea una grande immigrazione, e questo è il problema dell'accoglienza dei paesi dove si arriva. La ministra degli interni Luciana Lamorghese e il segretario del PD Nicola Zingaretti hanno affermato che a gennaio, cioè adesso, il governo modificherà le leggi Salvini su sicurezza e immigrazione. Modifiche urgenti, visto che il settore dell'accoglienza è in grande difficoltà, come testimonia un report di Action Aid e Open Police. Noi abbiamo raggiunto Stefano Trovato, il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza. Con questo vi salutiamo e diamo appuntamento domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti. A domani, buon ascolto. Le ragioni sono sostanzialmente di due ordini. C'è una ragione tipo economico, sicuramente, quando i nuovi bandi non rispondono a delle ragioni economiche, tenuta economica della retta pro capite proposta dall'Antero nel bando delle prefetture, quindi i servizi che vengono richiesti secondo gran parte delle organizzazioni non possono essere coperti da quel tipo di tariffa. L'altro ordine è di tipo proprio, diciamo, ideale, senso che molta parte della cooperazione, ma anche l'associazionismo, non si ritengono soggetti che fanno albergaggio, viene detto, cioè di essere pure alberghiere per le persone, ma sostanzialmente si vedono inseriti dentro un percorso di emancipazione, di inserimento nel tessuto sociale, quindi di essere soggetti che svolgono un ruolo preciso nella società che non è solo di tipo economico, ma anche sussidiario rispetto appunto a alcuni servizi che lo Stato dovrebbe offrire, e quindi per questo non partecipano, quindi sia per ragioni economiche ma anche per ragioni politiche. Le organizzazioni, tornando al secondo punto, che è una motivazione, se vogliamo, più politica e di senso, è perché gran parte della cooperazione si è, diciamo, almeno quella che ha a cuore quella visione della cooperazione, si è strutturata nell'accoglienza di, che è uno strumento tipico anche già del sistema accoglienza SAR, quindi non solo dei CAS ma anche dell'accoglienza SAR, che ha caratterizzato proprio un modello italiano, cioè quello che pensava di inserimento di persone a piccoli gruppi nel territorio, contrariamente a chi invece ha pensato che andava fatto un'accoglienza su grandi strutture e quindi con un rapporto con le persone meno di prossimità, più di un servizio appunto, come dicevo prima, alberghiero. Chiaramente la motivazione invece sul piano economico è che nelle strutture che si caratterizzano per un'accoglienza diffusa le economie di scala sono minori, no? E quindi è più difficile anche lì recuperare, nel caso un abbassamento della tariffa, recuperare quei gap attraverso l'economia di scala, cosa che invece è maggiormente possibile in grandi strutture strutture dove chiaramente hai delle economie di scala sul piano degli acquisti, dei servizi alle persone e l'ottimizzazione di alcuni costi proprio del personale. E in effetti noi registriamo appunto che più di frequente i temi si registrano per i piccoli centri, ma registriamo che in alcuni casi gare sono andate deserte anche per centri di grande dimensione, nonostante, come ci dicevi, esistano in questi casi maggiori possibilità di fare economia scala. Secondo te quindi invece in quest'altro caso, se ripetendo le gare le prefetture non dovessero riuscire a trovare gestori disposti a coprire le necessità del territorio, secondo te quali sono le possibili alternative? Quali sono gli scenari? Gli scenari, fin dall'inizio, uno strumento che hanno utilizzato è stata la proroga delle gare o una trattativa sulla proroga. Sappiamo che questo scenario non è prorogabile, uso la stessa formula, nel senso che ad un certo punto il Ministero dovrà scegliere se modificare il capitolato, appunto la modalità di gara, o implementare con altri modi, perché è chiaro che così ad oggi, con questi numeri di persone ancora in carico, le prefetture non riescono a gestire l'accoglienza, quella appunto diffusa, ma perché non hanno risposte neanche nell'accoglienza appunto aggregata. Tendenzialmente le prefetture hanno un tempo fino a marzo, perché stanno facendo proroghe, stanno tentando comunque, dove non sono state fatte le gare, ma se queste gare vanno a riserve, chiedono agli enti gestori di prorogare fino a marzo. Diverse organizzazioni sappiamo che hanno presentato ricorsi nei confronti del nuovo capitolato. Ti stai seguendo questi ricorsi? Sì, ne abbiamo parlato anche all'interno dell'organizzazione. Da noi le organizzazioni che hanno scelto di fare ricorso sono una minoranza, sono il 5% delle organizzazioni, quindi poche. I primi ricorsi sono andati non bene, che sono stati respinti, non sono stati vinti, anche perché erano evidentemente deficitari rispetto a un'analisi più precisa sui costi e sulla tipologia del servizio. Mi sembra un dato interessante, per esempio, che c'è un gruppo di organizzazioni toscane che hanno fatto corso al TAR della Toscana, e il TAR della Toscana si è riservato fino a gennaio del prossimo anno una valutazione approfondita. Ecco, questo è un primo elemento interessante, perché significa che, diciamo, ci sarà una risposta più nel merito, più approfondita, perché poi quel ricorso è stato molto molto dettagliato. Io ho visto alcune parti, perché a questo ricorso hanno contribuito anche organizzazioni aderenti al CNCA, e quindi capisco anche la risposta del TAR, che ha chiesto tempo e sta facendo una risposta con tutti i soggetti interessati.